Eccoci, Radio Onda Rossa, 11:20. Allora, lo avevamo annunciato, siamo in collegamento con Sandro Giuliani, capotreno delle ferrovie, licenziato il 21 gennaio scorso da Trenitalia. Allora, ciao Sandro. Ciao. Ciao. Allora, insomma, delle vicende relative ai licenziamenti in ferrovia chiaramente ci siamo occupati anche in passato, visto che Trenitalia ha, per così dire, il licenziamento facile e visto che comunque a livello generale i problemi della sicurezza sono fino ad oggi stati sempre subordinati ad altre mission che evidentemente stanno più a cuore all'azienda e di solito, insomma, a pagarne le conseguenze sono stati i lavoratori più consapevoli, quelli che hanno denunciato oppure con i loro comportamenti stessi evidenziato le gravi omissioni di Trenitalia, che insomma, manchevolezze che a volte sono costate anche vite umane. Ora, al di là di questo, insomma, Sandro, magari spiegaci i motivi che l'azienda ha addotto, insomma, per il tuo licenziamento, anche perché con noi chiaramente abbiamo anche di fronte a noi la schermata in cui questi motivi sono riassunti, però ecco, nel linguaggio tecnico magari non si capisce un granché. D'altra parte crediamo che per certi versi sia un mistero anche per te, insomma. Guarda, io ho la lettera di licenziamento, se vuoi posso leggertela, ma credo che anche il legale che l'ha letta ha detto che non si capisce, perché effettivamente loro si richiamano ad un articolo del contratto che fa riferimento a una decina di punti, quindi se applicano quell'articolo è perché io avrei fatto una delle violazioni relative ai punti, ma non ce n'è nemmeno uno, perché non ho rubato, non sono passato alle vie di fatto, non ho fatto risse, non ho fatto concussione, non ho fatto niente di tutto questo. Tra l'altro un paio di sindacati, il Fast Ferrovie e il sindacato autonomo Orsa, hanno scritto che io rivendicavo da più di un anno il rispetto di norme d'esercizio. Ora, il problema qual è? Credo che vada riassunto facendo una piccola premessa. Allora, innanzitutto Trenitalia non è un caso a parte, penso che Trenitalia lavori in un'ottica di servizio pubblico legata a quelli che sono i bilanci di un'azienda. Se consideriamo che la mobilità in Italia, così come penso in tanti altri paesi, sta via via avviando sempre di più verso una liberalizzazione, una privatizzazione, va detto che tutto ciò deve essere necessariamente regolamentato da una sorta di codice. Se tu fai caso, esiste un codice della strada, esiste un codice dell'aviazione, esiste un codice della navigazione, ma non esiste un codice del ferro. Questa era una proposta che tra l'altro feci io alcuni anni fa, che non la sostenne di Fondazione Comunista fino a che non andò al governo, poi dopo, una volta andato al governo, se n'è dimenticata, però voglio dire, questi sono gli errori di gioventù forse, no? Ora, il codice del ferro è un qualcosa che serve a dare le norme a tutte le imprese. Allo scopo di creare una fattispecie di codice del ferro, comunque è stata istituita col decreto 162, decreto legislativo 162 del 2007, l'Authority, che è l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, che ha il compito di scrivere, emanare, modificare e integrare le norme di circolazione della sicurezza ferroviaria. Quindi è solo lei che può fare le norme. Tutte le imprese che vogliano venire, che si chiamino Trenitalia, che si chiamino Della Valle, che si chiamino Montezemolo, debbono rispettare per forza quelle norme. È una sorta di codice della strada, del ferro. Quindi quando io rivendico il rispetto delle istruzioni, è come se, che ne so, un autista dell'ATAC dicesse: io col rosso non ci passo. A voglia che tu, impresa, mi dici passa col rosso. Qui il problema non è che a me Trenitalia mi ha detto di passare col rosso, è che mi ha lasciato in una sorta di incertezza per più di un anno, perché io scrivevo: guardate che io faccio così, l'ho scritto al mio tutor, l'ho scritto all'azienda e non ho mai ricevuto né una contestazione né un aggiornamento professionale, niente. Improvvisamente una montagna di contestazioni tutte racchiuse in un'unica lettera e un licenziamento secco. Ora, è chiaro che tutto questo ha un retroscena. Il retroscena è legato ad un accordo che è stato fatto tra sindacati e azienda, impresa di trasporto parlo, Trenitalia, il 15 maggio 2009, che è stato denominato dell'agente solo, ma impropriamente, perché se uno legge questo accordo non ci troverà mai scritto agente solo. Agente solo è riferito al macchinista. L'accordo, tra l'altro, va a dire una cosa che già esisteva, perché già da prima c'era un macchinista da solo, chi prende il servizio metropolitano, il treno regionale, lo vede da 10 anni il macchinista che sta da solo, a fianco c'è il capotreno. E questo accordo confermava il rispetto delle prescrizioni normative vigenti e che il capotreno avrebbe mantenuto le stesse competenze e funzioni in materia di sicurezza. Ma d'altronde, da quel momento però, è partita una serie di contestazioni, prima verbali, poi mi riferisco, perché poi chiaramente non è che l'abbia viste, poi scritte, in cui i miei colleghi venivano contestati di stare al fianco del macchinista. Ma le istruzioni dell'agenzia, quelle riferite all'authority, sono però chiare, dicono che dobbiamo stare davanti. Quindi se con un accordo loro mi dicono che devo stare di dietro, io è chiaro che posso prendere atto di aver capito male, perché è come se l'ATAC facesse un accordo con la CGIL che lavora dentro l'ATAC per modificare il codice della strada, no? È proprio fuori di ogni senso logico. E questo è l'ambito in cui io sono stato processato e licenziato. Beh, insomma, da quello che dici, tra l'altro trapela anche un aspetto che magari, insomma, non potrai certo confermarlo tu, ti capiamo per questo, ma magari lo diciamo noi, cioè che a fronte di questo vuoto regolamentare, evidentemente se vi è stato questo licenziamento è perché magari c'è anche una vena persecutoria, insomma, magari nei tuoi confronti, magari nei confronti anche di altri colleghi, magari di coloro i quali, insomma, cercano invece di ovviare a queste ambiguità per mettere le cose in chiaro. Questo da una parte. Dall'altra, insomma, c'è anche un'altra questione, perché la questione della sicurezza in questo caso intreccia anche l'opportunità che Trenitalia avrebbe per mettere davvero tutto in sicurezza e anche per risparmiare oltretutto questi licenziamenti ingiustificati e per magari risollevare le questioni occupazionali in ferrovia, perché insomma assumendo più personale probabilmente questo tipo di complicazioni verrebbero meno. Beh, sicuramente, è chiaro che se ci sono più persone che garantiscono la sicurezza, sì, è come il discorso dei quattro occhi che vedono meglio di due, sia davanti che di dietro. Non dimentichiamoci che fino a una decina d'anni fa c'erano due macchinisti e c'erano anche un paio di persone di dietro, quindi bene o male, quando c'era l'intervento, metti caso, non so, un incendio, noi abbiamo gallerie, provo a immaginare, che ne so, in Liguria, dove è tutta una galleria. Ma può un macchinista da solo, insieme a un capotreno da solo, salvare 500-600 persone in caso prenda fuoco un treno in galleria? Lì il fumo, il panico, puoi immaginare quello che potrebbe scatenarsi. Quindi noi abbiamo una situazione non facile in certi momenti, che va pensata in anticipo. Il discorso di mettere più persone, ti basti pensare il controllo, combattere l'evasione, no? Perché poi combattere l'evasione è una questione anche legata al contributo della regione. La regione, non so quanti lo sappiano, ma dà il 65% del costo dell'esercizio, cioè quello che costa far muovere la gente, per il 65% lo paga la regione. Quindi se uno paga 50 euro un abbonamento, in realtà l'abbonamento, quei 50 euro sono solo il 35% del costo. Ora, a fronte di questo introito che comunque c'è per ogni cittadino che paga, e va detto che il treno lo pagano tutti, anche quelli che non lo prendono, perché è un po' come il commissariato, la scuola, il tribunale, non è che se uno non lo usa non lo paga, visto che lo paga la regione avrebbe diritto a lamentarsi anche il cittadino che il treno non lo paga se un servizio non viene fatto come deve essere fatto. Ora ti dicevo, in base al ragionamento che si può fare sull'antievasione, no? Se tu vedi quello che fanno dentro la metropolitana, dove i tornelli, quando uno passa, ci trova 4-5 controllori, a volte ci trova anche due poliziotti, poi c'è sempre la polizia privata, è chiaro che lì diventa difficile, se non impossibile, per chiunque passarla liscia se non ha il biglietto. Ma da noi, che ti trovi anche con 8 vagoni da solo, e ogni vagone porta, quando sono pieni, 90 persone, 100 persone, 80, insomma, fai il conto, 8x8, 64, 700 persone, controllarle da sole significa che se ti va bene, insomma, la vecchietta la becchi, perché non riesce velocemente a portarsi nell'altro vagone, o perché, insomma, non è così minacciosa, perché tu lì poi stai da solo, non è che c'hai l'ausilio di un poliziotto, due poliziotti, guardia privata. Quindi combattere l'evasione per noi diventa francamente un problema, ed è un problema anche di coscienza, perché chiaramente se io ogni volta che vedo un pericolo ho la coscienza che mi consiglia di essere più prudente e di fare il biglietto principalmente, prioritariamente al soggetto più debole, insomma, voglio dire, questo a me mi crea un problema di coscienza. No, pagano sempre i più deboli alla fine, questo mi disturba. Poi è vero che la regione compensa, perché quello che serve comunque lo mette, però il discorso è sempre lì: perché alla metropolitana ci stanno 6 persone, 8 persone quando esco per controllarmi il biglietto, mentre sul treno mi trovo a lavorare da solo contro 800 persone con la fermata ogni 3 minuti? E questo ti fa un po' capire come funzionano poi le imprese. Io non parlerei di Trenitalia, perché poi con la liberalizzazione del mercato chiunque venisse qui farebbe, non è che mettono 4 persone di dietro, chiunque tenderà a far quadrare il bilancio secondo i propri ragionamenti, anzi c'è pure il rischio che qualcuno faccia di meno. È certo. Cioè, il problema è l'autority. Se l'autority vigila e dice questo non si può fare e sanziona, perché poi la sanzione può essere quella del ritiro del certificato di sicurezza e del ritiro della licenza, però qui ci inoltriamo in un campo che è impossibile, perché tu provi a immaginare che se l'autority vedesse bene e ammettiamo che non c'è adesso nessuna questione mia, ma l'autority osservasse che è mancato rispetto di qualche norma di sicurezza e si è ripetuto nel tempo, e decidesse di intervenire, potrebbe ritirare il certificato di sicurezza all'impresa di trasporto, e questo significherebbe per l'impresa lo smettere di lavorare, perché gli toglierebbe anche la licenza di trasporto. Non c'ha la concessione dello Stato, c'ha la licenza di trasporto. Allora, se tu ritiri la licenza a Trenitalia, che copre l'85%, il 90% del trasporto ferroviario nazionale, tu paralizzi il paese. Quindi l'autority è stata messa lì, però in realtà sti poteri non ce l'ha. E questo è un problema che i sindacati stessi che stanno all'interno delle ferrovie, secondo me, dovrebbero denunciare. Non puoi star zitto davanti a una cosa del genere. Tu mi fai fare gli scioperi ripetutamente tutti gli anni, dicendo sempre che è contro la privatizzazione, la liberalizzazione, mi fai fare gli scioperi a me ferroviere, ma se liberalizzano il mercato, se fanno la privatizzazione, se c'è una sorta di dumping, di peggioramento del servizio, la cosa riguarda pure l'utenza. È come se facessero fare lo sciopero solo a quelli dell'Enel perché riducono la portata dell'energia elettrica in Italia. Cioè, quelli dell'Enel diranno, vabbè, ma i cittadini che poi dopo il frigorifero non accendono più. E questo è il concetto, no, che la politica ormai si fa sempre dentro ambiti ristretti, nessuno sa quello che succede nella stanza a fianco, c'è un codice civile, un codice etico che ti impongono il silenzio ogni volta che devi dire qualche cosa dell'azienda, stai sempre a rischio che se dici mezza parola in più ti licenziano. Questa è una cosa che praticamente impedisce al paese, secondo me, di crescere. Beh, insomma, hai evidenziato una serie di nodi, tutti chiaramente importanti per la riflessione e tutti, diciamo, che sottolineano una serie di problemi. Vabbè, quello, il problema di coscienza di cui hai parlato, beh, da una parte noi siamo ben contenti che ci siano ancora persone, insomma, che se lo pongono questo problema, d'altra parte noi pensiamo, insomma, e crediamo che alcuni servizi debbano essere così, magari sottoposti a agevolazioni particolari, soprattutto per fasce sociali che ne hanno bisogno, e quindi va da sé che dal nostro punto di vista almeno alcuni fasce dovrebbero essere maggiormente tutelate rispetto al rialzo dei costi, insomma, delle tratte, insomma, ferroviarie. Per il resto poi, come vogliamo commentare? Da quando siamo diventati, piuttosto che fruitori consapevoli e coscienziosi, degli utenti, scivolando poi anche a essere clienti, è inevitabile, insomma, che poi magari tutta una serie di problemi non ce li poniamo. D'altra parte a lor signori sta bene che nessuno se li ponga. Volevo però anche, per ritornare alle questioni della sicurezza, Sandro, farti specificare un po' meglio proprio questa situazione relativa all'agente unico, a parte che poi le denominazioni che trovano sono sempre curiose, no? Perché si va dall'uomo morto all'agente solo, che già, insomma, sono abbastanza emblematiche di quello che succede, dei tagli che ci sono e dell'insicurezza a cui sono esposti gli stessi lavoratori che sono sui treni. È apparsa, abbiamo recuperato dal sito Macchinisti Uniti, insomma, questo articolo di Liberazione che ormai è stato pubblicato un mesetto fa, in cui però si intervista Ezio Gallori, ex leader del Como, e lui dà un dato che sembra abbastanza significativo riguardo gli incidenti e la relazione tra l'aumento degli incidenti e questa vicenda dei macchinisti, l'introduzione appunto dell'agente solo, che immagino che però qua si fa riferimento addirittura all'85, credo, almeno da come mi hai parlato anche tu, che non fosse neanche così regolamentato appieno il fatto che la gente dovesse essere da solo, insomma. Comunque il dato che dice Gallori è che fino all'85 gli incidenti in ferrovia avevano provocato la morte di 7 macchinisti, dall'85 al 2005 sono cresciuti in maniera davvero esponenziale, fino ad arrivare al numero di 54. E quindi il giornalista poi chiede: cosa è accaduto nell'85? I macchinisti, dice, sono passati da 2 a 1, insomma è uno stillicidio. Beh, questo sembrerebbe contraddire però quello che dice Gallori, perché se sono passati da 2 a 1, invece di morirne 2 ne muore 1, no? Quindi se sono aumentati addirittura, è segno che gli incidenti sono aumentati a dismisura. Laddove prima si incidentavano 2 treni, adesso sono 8, perché per poter fare quel raffronto, come hai detto, per fare 54 macchinisti. Guarda, il problema, credo, posso, non è che sia un esperto di questa materia, probabilmente Gallori ne sa molto di più, credo che il problema sia quello che ti ho detto prima, cioè c'è un authority, ci deve essere un controllo. Prima dell'authority c'era un ministro, adesso il ministro ha delegato l'authority, ma c'è comunque un responsabile a capo di tutta la filiera. Quindi se questo, il rapporto annuale che ha sugli incidenti in ferrovia, lo considera un fatto formale che va archiviato e basta e tutto prosegue come prima, allora qui il problema non si risolverà mai. Il fatto di voler addebitare la sicurezza, un calo di sicurezza, al fatto che si sia introdotto l'agente solo, io non ho i dati e non lo escludo, però non posso neanche confermartelo, perché poi le dinamiche sono tantissime, potrebbe anche essere che sono aumentati il numero dei treni che sono stati messi in rete, quindi potrebbe essere anche quello l'aumento. Però sicuramente posso dirti che se togli personale, in genere il rischio aumenta, perché 4 occhi vedono meglio di 2, perché un macchinista, con tutta la buona volontà che ha, o così anche un capotreno, è soggetto a colpi di sonno, e quindi se c'è l'altro che sta sveglio frena lui. Infatti il fatto che il capotreno stia davanti, secondo le istruzioni emanate dall'autority, serve a frenare in caso di emergenza. E ti voglio ricordare che il 13 maggio del 2010 nella stazione di Viterbo Porta Romana c'è stato un treno che è entrato in stazione sul binario che era occupato da un altro treno, due treni viaggiatori, e tutti e due dotati di questa più moderna tecnologia, e si sono trovati entrambi col semaforo verde, uno contro l'altro. Ora, se questa tecnologia addirittura non permette di vedere un treno sullo stesso binario che sta frontalmente contro di te, io dico che l'agenzia fa bene a lasciare le istruzioni come stanno, cioè quattro occhi davanti in cabina di guida e poi di dietro, diciamo così, è importante garantire anche di dietro, però insomma a sto punto bisognerà che ci metta qualcun altro. Non è possibile che il capotreno possa stare davanti, di dietro, sopra e sotto, cioè è una persona alla fine soggetta a non avere il dono dell'ubiquità. Quindi ecco, il punto credo che sia questo, ma comunque va ricondotto sempre in un ambito più grande, perché la politica del liberismo ci ha portato ormai dappertutto ad anteporre i bilanci delle aziende, che possono essere anche aziende sanitarie, insomma, perché se tu vai dentro un ospedale e ti fa l'iniezione uno che è costretto a fartela con un contratto da precario, e non può neanche dire quello che succede in sala operatoria, e non sai se sta lavorando da 12 ore, tu non lo sai chi c'hai davanti, però sicuramente una cosa la sai, che se quello dice una cosa lo licenziano. E quindi a sto punto uno dice, ma l'articolo 2 della Costituzione, che dà il dovere di solidarietà economica, politica e sociale, e che dovrebbe permettere a chiunque in presenza di un pericolo di segnalare alla collettività, guardate che qui c'è un rischio, c'è un pericolo, il primo che viene licenziato è quello che rispetta questo dovere. Io dico che va ripensato un po' l'insieme, va quantomeno portato nella discussione un elemento di questo tipo, perché non si possono coniugare le due cose. Tu prendi l'articolo 41 della Costituzione, scusa se sto a fare tanto, però insomma sono cose che io in questo periodo me ne sono andate a rivedere, bene o male, no? Ti dice che l'impresa è privata e libera, non può essere in contrasto con l'utilità sociale, ma dimmene te una che ce l'è invece, che è in linea con l'utilità sociale. Qui inquinano tutto, le falde acquifere, è tutta a norma di legge qua, si fa tutto a norma di legge. Tutti quelli che sono, come ha denunciato Report, le autorità, sia che sia nella telefonia, sia che sia nell'energia, tutte quante hanno problemi a intervenire. E allora a sto punto il problema nostro è quello di prendere coscienza come cittadini, che paghiamo dei servizi che non sappiamo, che dobbiamo verificare se ce l'abbiamo o meno, e poi pretendere eventuali modifiche lì. Perché poi è sempre come dicono a Napoli, che il pesce puzza dalla testa. Dalla testa, certo. Non possiamo che condividere insomma il tuo ragionamento. Tra l'altro hai fatto benissimo anche a sottolineare la mortificazione con cui ogni giorno insomma moltissime persone raggiungono il loro posto di lavoro nella consapevolezza poi di dover ingoiare rospi amari, di essere sotto ricatto, di non poter insomma magari lavorare nella migliore delle condizioni, no? Saremo ben contenti di dare un servizio col sorriso, non è che però chiaramente quando tu vieni preso sempre a riferimento, unico riferimento, perché stai lì in divisa come responsabile di tutto quello che non funziona, insomma dopo poco il sorriso ti passa, si fa il parafulmine e basta, in quel caso. Insomma. Senti, passando a un altro versante di questa vicenda, noi chiaramente speriamo che le mobilitazioni che ci sono state in solidarietà con altri casi che hanno preceduto il tuo non siano da meno oggi nei tuoi confronti. Si è formato comunque un comitato, e questo comitato comunque sta quantomeno sul piano dell'informazione facendo grandi cose, questo lo possiamo dire? Sì. Io ho ricevuto anche una informazione che il Comitato dei Pendolari del Piemonte ha ricevuto notizia da questa rete, ormai da questo tam tam in rete, per cui a loro volta, molto responsabilmente, devo dire unici in tutta Italia, hanno convocato RFI, hanno convocato la polizia ferroviaria, gli organi di stampa, credo che anche la ASL, qualcosa del genere, per capire quali sono i problemi connessi con la sicurezza e con l'utilizzo del personale dei treni. Però, voglio dire, solo nel Piemonte è successo questo. E per il resto, comunque, il comitato sta facendo bene, sta facendo girare informazioni, mi sta sostenendo per le spese legali e non posso che ringraziare tutti. Va bene, senti, volevo anche chiederti un'altra cosa, aspetta un attimo. Vabbè, sì, certo, questa iniziativa, insomma, speriamo che tra l'altro si estenda questa iniziativa che è stata convocata in Piemonte di cui ci parlavi, Sandro. Nel frattempo, insomma, speriamo che anche che tu mantenga la pazienza dovuta, perché sappiamo tra l'altro che di solito le lungaggini in questo caso sono davvero tante, nella maggior parte dei casi si attendono anche degli anni prima di essere reintegrati in azienda, quindi ti attende probabilmente un periodo abbastanza duro e difficile, una sorta di limbo. Sì. Tu sei cosciente, sei attrezzato, insomma, per tutto questo? Ma sai, questo vedremo, perché poi io fortunatamente al momento l'ho presa, diciamo così, abbastanza bene, tutto sommato, nel senso che ritengo di avere tutte le ragioni per essere reintegrato. Questo mi sostiene. Però è chiaro che quando c'è un licenziamento così, poi anche gli equilibri in famiglia vacillano, mia figlia che voleva smettere di studiare, andare subito a lavorare, insomma sono cose che ti fanno male, perché perdi la sicurezza anche personale e credo che questo non faccia bene a nessuno, perché poi i colleghi stessi, alcuni dei quali ho rivisto, che avevano iniziato anche loro a fare quello che facevo io, hanno smesso immediatamente tutti di farlo, si sono impauriti tutti. Insomma, beh, questa è la notizia peggiore, insomma, che magari. Cioè, ma dove trovi il paracadute? Tu vedi CGIL, CISL, UIL, stanno zitti, non hanno preso posizione né a favore né contro, come se la cosa non fosse esistita. Un licenziamento senza preavviso li lascia così, zitti, non dicono né che ho sbagliato né che ho ragione. Cioè, la cosa è pazzesca, perché tu ti rendi conto, avessero detto ha sbagliato a fare questo, vabbè, ma io faccio questo da un anno, applico le istruzioni del gestore dell'agenzia, lo scrivo formalmente all'azienda già la prima volta il 4 febbraio, lo controfirma il mio tutor, gliela consegno il 21 di luglio, al 22 luglio gli mando addirittura un fax in cui gli dico guarda, io sto facendo così, e nessuno mi dice niente, ma allora sto facendo bene. Per quale motivo? Sempre dietro a questo accordo che tutti quanti hanno recepito, ma che nessuno ha letto, perché poi i miei colleghi mi dicevano ma c'è l'accordo, vabbè, ma l'accordo non modifica le istruzioni. L'accordo non, che ti dice? Ti dice che nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti me vado a vedere le istruzioni, io sto davanti. D'altronde, se io investo una persona che attraversa il passaggio a livello e sto di dietro e il giudice si va a leggere le istruzioni e le capisce, soprattutto perché il problema è il groviglio normativo, e le capisce, e capisce che quella persona si sarebbe potuta salvare se io fossi stato davanti e avessi frenato, io non lo so come poi si mettono queste imprese di trasporto da un punto di vista penale, no? È vero che non c'è scritto da nessuna parte che sei obbligato a stare di dietro, però di fatto capisci che le sanzioni disciplinari qualcosa vorranno dire, no? Certo, sto davanti, certo. Mi licenzi. Beh, loro purtroppo poi gli escamotage per uscire fuori da queste storie, insomma, al loro modo di dire a testa alta le trovano sempre, no? Perché poi si va anche presto a dare la colpa al solito errore umano, scagionando, insomma, quelle che sono le responsabilità dall'alto, che in ogni caso sono sempre, noi crediamo, quelle principali. Sandro, chiaramente tu hai tutto il nostro appoggio e siamo convinti che comunque il tuo reintegro, sebbene poi magari i tempi possano allungarsi, sia doveroso, necessario e che senza dubbio ci sarà. Nel frattempo, ecco, magari non può essere chissà di quale consolazione, ma insomma noi cercheremo di starti vicino e comunque di informare gli ascoltatori, gli ascoltatrici di Radio Onda Rossa di questa situazione, anche dei suoi sviluppi. Quindi da qui insomma in avanti di tanto in tanto ti proveremo a disturbarti, ecco, cercando di capire insomma quello che sta succedendo, ok? Ti fa molto piacere, se mi d'accordo disturbate. D'accordo, allora a presto, ciao Sandro, ciao, grazie di tutto, grazie, ciao grazie, ciao ciao ciao.